Carlo già li ha visti, ero che abito all'interno del giardino, fissate bene, a muro, ho 4 metri di tubo e già andavo così, poi in alto dove c'è le V e le U, lì ho agganciato la carrucola, ci sono agganciati i dipoli, e invece i dipoli con i bracci, due fuori dal giardino e due dentro il giardino, ma c'è la Bigliancur, già andavo. Avanti, Carlo Magno. Sì, il vento ha fatto, insomma, i suoi danni. Antonio era incavolato nero perché gli ha piegato l'antenna, come dicevo prima, e infatti il suo segnale è sceso da 9,20, era a 5,6. Non ho sentito Antonio per che problemi ha avuto. Ma oh Carlo, ma non è che tu mi dicevi te ne hai comprato l'MC60? No, c'è una radio da favola, lontano lo stai tenendo, 10 centimetri. Sì, ce l'ho sulla gamba, capito, perché se lo avvicino, diciamo, va in distorsione, non si capisce bene. Invece così adesso mi sto abituando con questo, lo sto tenendo più lontano e già sta andando bene. No, bene, no, di più, una canonata, veramente bene, bene, bene, bene. Poi con calma, col tempo, capito, già ne abbiamo di che mi chiuffi. Io due sotto mano, infatti uno gli ho detto mettilo da parte e conservalo che già mi serve. Piano piano poi glielo mettiamo, gli facciamo uno spaziettino e diventi Claudio Sparviero con la radio. No, già va bene così, già va bene. Adesso mi devo un po' abituare. Stavo facendo un po' di radioascolto sulle altre. Cavolo, questa antenna riceve bene, riceve anche, insomma, quelle altre bande là, almeno posso ascoltare qualcosa. No, hai visto la sommarata, io sono rimasto a bocca aperta, c'è una ricezione, poi la zona, ma l'antenna è proprio buona. Se un chissabù mi ha detto, ascolta ai 40 metri, che è una favola, se tu lasci a quest'ora, mi adesso, fumo, che te ne vai in 80, a 3660, 3657, 50, che c'è un bel di genere a quest'ora. Ma lo sai come ricevi? Quell'antenna è favolosa, me la compro anche io. Me la compro anche io, veramente. Me la pongo alla buona che attacco un baracchino, perché è veramente eccezionale quell'antenna. Vai, do. Sì, e quella deve essere buona l'antenna. Oh, io quando ascoltavo quella nera sui 40 metri sentivo un sacco di gente, sentivo, ed è una canna da pesca. Cazzo, ma sul letto tu, è normale che se... Ma lui c'ha una boomerang nel poggiolo, una boomerang da 2,75 m, ma il giorno sono andato io a registrare la radio, cazzo, ma sono rimasto a bocca aperta, c'ha una ricezione che è una favola. Deve essere che buona allora. Carlo, deve essere che buona. Cazzo. Tore, altra possibilità non ne ho adesso, e quindi ho provato con un'altra, non andava, e allora mi sono preso quella lì, e per adesso sta andando bene, anche perché poi mettere antenne più grandi nel poggiolo non è che vada tanto bene, capito? Perché sono sproporzionate, poi ho paura che mi dicano qualcosa. Questa invece già passa un po' anche inosservata, dai, non è che sia molto ingombrante, però diciamo che già trasmette e riceve bene, il suo dovere lo sta facendo egregiamente. L'importante è che sia messo bene il cavo, è tutto, quello è l'importante anche. Ma deve aver cambiato Carlo il cavo ancora? Sì, cambiato, me l'ho preparato prima e l'ho cambiato, quello bianco l'ho tolto, adesso questo che c'è nero e l'ho allungato, è più lungo, capito? E l'antenna l'ho anche spostata, l'ho tolta da quell'angolo lì, che hai ragione, toccava un pochettino su, l'ho spostata dove era prima e riceve bene comunque. Allora qualcosa hai fatto, perché da 7 sei passato a 9, io te l'ho detto, il cavo, già il cavo molto meglio, perché è un altro tipo di cavo e sicuramente hai guadagnato anche su quello, ma soprattutto con lo spostamento, sì, 9 pieno, 9 pieno, se non hai toccato la potenza, che la radio è sempre stabilizzata così, sono recuperato due segnali, mi vuol dire tanto. Sì, già va bene così, adesso lascio tutto così, almeno insomma ci metto un pochettino, dai, quando sto alla radio, quando ci sono su 10 mi ascolto qualche cosa o diverse possibilità, è sempre meglio. Ecco, Gianni Profeta, buonasera, un po' bassino sì però, l'antenna c'è sul tetto, sì. Sì, è una biscia però già è presente. vero, da 7, 8 eri, 8 si calato 7, vabbè, forse pure che qualche cosettina hai perso anche tu con questo tempaccio. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato, sei in compagnia di Carlo e di Torre Squalo. Gianni si è allontanato, avanti. Eia, buonasera a tutta la ruota, ho acceso adesso e... Piuttosto stavo guardando su internet, sulla pagina, cioè su Facebook, e ho visto un post di Roberto Quadrato e mi sa che gli hanno buttato giù qualche antenna. Non vedo, esci che lo chiamo, non sapevo niente. Adesso lo chiamo e non siamo sentiti oggi, di solito ci sentiamo. Non vorrei, siccome ha montato anche lì le direttive da poco, non vorrei, ha già fatto un anno. Riprendi Carlè che chiamo a Roby. Eia, ciao Gianni, come va? Dammi un controllino dalle tue parti, come ti sto arrivando che ho cambiato radio? 9 abbondante, più che abbondante. E allora già va bene, anche l'antenna sta facendo il suo. E non tocco più niente, adesso mi stabilizzo così. In questi giorni ero tra testoni, miscelatori d'antenna, cambiare il cavo dell'antenna. Insomma, adesso ho trovato la quadra, diciamo, già sta funzionando tutto. Bene Meda, non tocca se lascia tutto com'è. Che va bene, dopo salgo in terrazzo a dare un'altra occhiata, ho visto che me l'ha cucciolata bene, ancora vabbè, un po' è calato, dai. Andiamo a fare un sopralluogo per vedere in che stato è. Buonasera Tore, avanti. Sì, buonasera anche a te Gianni. È così, ti ha tirato un po' di vento, ma io adesso non lo sento più. Invece ti ha calato un po'. È meglio così, si è calato. Brecco, per un saluto cambio. Avanti Brecco. Ok, buonasera Marino, ciao Gianni, ciao Carlo, il tuo segnale qui ottava è Santiago 8, Carlo, la radio Super 5. 9 all'amico Squalo, Gianni 9-10, come Claudio, dico Claudio. Ok, io vi saluto, solo per un saluto, se mi cambiate il segnale vi dico grazie. Ok, Claudio, buonasera, ci sentiamo con calma, avanti Carlo. Ciao Marino, buonasera qua, Santiago 8 mi sta arrivando, buonasera, ben sentito, meno male che sei entrato a salutarci, vai Tore. Sì, ciao signor Marino, buonasera mi, a me mi stai arrivando l'ova, mi stai arrivando. Oggi mi sei asso, gru vento che te ne arreghelli. Anche qua c'è molto vento, ci ha fatto un casotto di danno qua in zona. Tutte le zone, Villa Polizia, Via dei Martini, Marini, Alberi in Terra, Vigili del Fuoco al lavoro. Ok, io sono solo per salutare perché c'ho gente, ho acceso perché questo amico voleva sentire qualcosa e solo per un saluto. Benissimo, riprendi Gianni, saluto anche Claudio, stai ascoltando, se ne ascolto e io chiudo. Avanti Gianni. Ricambio il segnale, 9-10 abbondante qua Maria, Radio Super 5. Ok, dai, salutoni. Benissimo, vi ringrazio. Carlo riprendi, ecco così per me, sentiamo prossima settimana, dai. Va bene Marino, buona serata e buon tutto. Quando bussi ci fa sempre piacere, bene Meda. E niente, noi facendo quattro chiacchiere, parlando di tutti questi eventi che stanno accadendo, alberi in terra, gente ferita, in provincia di Sassari, insomma, una bella scuzzolata la presa. sospesa, anche i voli tutti dirottati, i voli che dovevano atterrare all'Alghero sono finiti a Cagliari, poi da Cagliari stavano rientrando e ad Alghero non ce l'hanno rifatta, quindi hanno proseguito per Olbia, a Olbia non ce l'hanno fatta e sono ritornati a Roma, capito? C'è la gente disperata, non sa come raggiungere la Sardegna. Scusate, è un casotto, è un casotto, questo vento è, purtroppo è, sta cambiando il clima, sta cambiando tutto, non c'è niente da fare. Ok, riprendi Carlo, è per me quello che ti dà, anche tutti gli ascoltori. Avanti Carlo. Sì, bene, bene, bene Tore. Gianni, allora, ma sei salito a vedere la lanterna oppure niente? No, ancora no, salgo dopo, dai. Salgo dopo, giusto per dargli una controllata, al limite, se vedo che continua, mollo un paio di dadini e abbasso appena appena il tubo, così la metto in sicurezza. Ma ti parlo verso le tre e mezza, le quattro, dove c'è stato il picco, ho visto che era bella attorcigliata, comunque sembrava che reggesse, dai. Dopo vado e gli do uno sguardo. Brecco? Avanti, avanti Brecco. Buonasera a tutti, Luca da questa parte. Io ho visto la mia antenna all'ora di pranzo e pensavo che fosse orata. Aspetta, per come sta tirando deve essere un'orata, ma penso che fosse un'orata sui 4 kg, perché era piegata in una maniera allucinante. Rimbalzava che era una bellezza. Veramente sembrava una canna da pesca. Scusate, sono sempre io, scusate, disturbo. Ma Luca, chi sei? Luca di Via d'Italia? Cappa Roger, Luca, stazione Fluppi, fine di Via d'Italia. No, perché mi stai arrivando a Santiago 5, ti ascoltavo 9.15, io faccio molto ascolto, ma non posso entrare per altri problemi. Ma mi arrivavi 9.15, adesso mi stai arrivando a Santiago 5, ok. E allora vado a vedere se c'è ancora un'antenna sul tetto, che non sia successo qualcosa. Perché ti ho ascoltato per tutta la settimana, 9.15, io sono a zona ottava, ottimo segnale. Ok, Luca riprendi, io chiudo e la sopra per il segnale, ciao. E allora Bianco, per me che salgo un attimo in terrazza a vedere se è successo qualcosa. Controlla l'antenna che non sia spostata leggermente verso l'ospedale. Confermo Luca, anche io adesso stavo guardando, la radio è buona, però sei sceso, tu mi arrivavi 9.20, capito? Adesso sei sceso a 5 qualcosa. Perché l'ascoltavo 9.15 io qui a casa. Ripeto, faccio molto ascolto, 9.15, adesso mi arrivavo, l'ho sentito Santiago 5, qualcosa è successo, vabbè, scusate nuovamente, riprendi Carlo. Scusa Carlo, Marco, qui è crollato di brutto, arrivava 9.30 Luca, adesso è 9, modulato 9 più 5, crollato proprio. Ciao Marco Rino, scusa, salutami tua madre, ci sentiamo, ciao. Ciao Marino, ciao, salutoni anche a te, vai Carlo. Sì, infatti Luca adesso è andato a vedere l'antenna, la situazione, ma se non sbaglio Luca mi aveva detto che aveva messo anche dei tiranti, capito, per stabilizzarla bene, però lì è molto esposta, capito, e non lo so, qualcosa deve essere successo, perché non era il solito segnale. Ho notato, sono di passaggio, riprendete pure, vai il profeta. Ciao Marco, noti differenza dalle mie parti? No, fondo scala. Ok. Luca sta prendendo l'orata, io invece sto facendo traina. Mi sono spaventato quando l'ho vista, quando sono salita verso le tre e mezza, sembrava un amo alla pesca. Sta andando bene, tu c'hai una grande radio Gianni, stai andando bene, qua devo abbassare anche quando parli, bella chiara roboante. Guarda, adesso salgo e gli do un'occhiata, così vedo il responso. Sì, quello che è crollato è Luca qua mi stava arrivando 9.20, mi sa che me l'ho segnato anche, adesso lo controllo. Eia, chi c'è rimasto qua? Allora, c'è Store, c'era Marino, però mi sa che ha chiuso, Gianni Lutroffetta, io e Gianni Doppio Rum invece è andato a portare il cane. Poi c'è Claudio che però ha sentito da Gianni che insomma ha buttato giù qualche antenna a Roberto Quadrato e quindi mi sa che lo sta telefonando per sapere. Pure lui, cacchio, me li danno. E allora sono tre radioamatori già che hanno subito danno. E qualche CB. Vabbè, io solo nel 2008, non so se vi ricordate, il 2008 è stata una cosa terrificante, peggio di, molto peggio di questo, ma da non poter camminare in strada che ti portava via, ti buttava a terra, anno 2008 credo più o meno. Lo immagino, sì sì, Luca sicuramente ha avuto qualche problema perché lui arrivava qua, sto guardando Luca Floppi, 9 più 20, Viale Italia, capito? Niente, quindi lo sentivo con segnale 5-6 qua. Brofè, non c'è più Gianni Brofè. Eccomi, eccomi. Allora, sono appena sceso al terrazzo. Sì, ancora sta tirando un po' di vento, vedo che ondeggia abbastanza, però è dritta, dai. Ero al telefono con Roberto Quadrato, no, niente di grave, gli ha spezzato la verticale 5 bande, quella che andava a pesca, ma ce l'ho io nuova, domani mattina gliela porto e si piazza quella lì. Ah, ok. No, siccome ho visto la direttiva e altre cose, poi c'era un piccolo traliccio con della roba pendura, e poi sotto la descrizione dei danni va fatto, dai, comunque, a quanto pare è tutto risolvibile. No, no, niente di grave, roba da pochi denari, no, la direttiva è tutta apposta, letto. Domani mattina le porto quella che c'ho io, che è anche un po' più grossa, così si piazza quella. Io non l'ho mai piazzata, l'avevo presa, non l'ho mai piazzata. Già ci arrangiamo con lui. È un amico. Va bene, ok. Signori, io però vi lascio perché inizio ad andare ai fornelli, che sono già le 8:15, devo fare anche una chiamata a mamma prima che si addormenti. Un abbraccio a tutti, ciao Tore, Gianni e Carlo. Non tocca se Carlo, non tocca se stai arrivando, ma una bomba. E tutti quelli che sono ascolto. Un abbraccio a tutti, cambio per Carlo, ascolto i finali e poi chiudo. Ciao ciao. Ciao Claudio. Ciao Gianni. Va bene Claudio, buona serata, buon tutto e buona cena quando la farai. Niente, speriamo a Luca non gli abbia insomma fatto danno perché l'antenna l'ha messa da poco, adesso vediamo se riprende dopo a farci sapere qualcosa. Marco, ci sei ancora? Sì, a Luca. Ciao Claudio. Avanti Luca. Ciao raga, ciao Luca. Ciao, saluti a tutti. Allora, dei 6,20 di antenna ce ne sono ancora 2 sul palo e 4 per terra. E niente, esco senza stazionarie perché ho l'accordatore, però niente, non ha retto botta. Io l'ho vista che era impressionante quanto si stava piegando all'ora di pranzo, evidentemente verso le 4 quando c'è stato il picco, e si è spezzata. Adesso vedo se è riparabile in qualche modo, se no pazienza. Però sono tutti steli che si avvitano uno con l'altro. Quello che si è spezzato me lo porto giù in azienda e lo saldo, perché noi possiamo saldare l'alluminio. Certo, non questi giorni che con questo vento non ci salgo sul tetto. Come fa una bella giornata, metto giù e la saldo. A 9 più 10, sì, S5 Luca, S5. E ti ripeto, l'antenna di 6 metri, 2 sono ancora sul palo con i radiali e gli altri 4 sono coricati sull'astrico solare. Sì, si è calato a 9, 10 e 5, vabbè, cose che possono succedere ragazzi, purtroppo io dico sempre, smetterò mai di dirlo, che l'antenna, l'unica antenna che regge il vento, che proprio può fare quello che le piace. Tenete conto che io ho avuto la Mantova per 15 anni a 30 metri di altezza, con maestrale, venti di tutti i tipi, non l'ha mai fatto una mazza, e quando l'ho smontata da lì a carbonati, l'ho portata qua, ancora è la stessa antenna. Non ce ne sono antenne che possono battere la Mantova, che se lo tolgano tutti dalla testa. A trovarla nuova magari. Lo so Marco, lo so, e tu lo sai come funziona, però volendo si può anche trovare, perché quando sono andato alla fiera di Genova, ok, c'era un banconiere che ne aveva bizzeffa di Mantova, Mantova 1, Mantova Turbo e Mantova 5, io ne avevo preso due, Mantova 1 e Mantova 5, me le sono conservate, perché non si trovano, capito, non si trovano, assolutamente, e dico ancora che ho due piantoni nuovi conservati, perché può succedere, e ancora degli stili, però fare gli stili non è difficile, perché compri l'alluminio delle dimensioni sue e si possono innestare. Il problema è il piantone, se si rompe il piantone non lo trovi più. E a quei livelli conveniva fare un piccolo investimento, prendersi una decina a un prezzo vantaggioso e rivendersela più cara qua, perché tanto lo sai che tutti vogliono quella. Vai doppio rum. Io ho preso la Lembra perché non ho trovato quella, se no avrei preso quella lì di nuovo, ma la Mantova 5 non la turbo, la Mantova 5 che a me mi è durata 12 anni, poi l'avevamo ripristinata con Fabrizio e mi è durato altri 5-6 anni, e poi vabbè mi sono stufato perché mi ha dato problemi e l'ho data, capito, la Car Claudio quando abbiamo piazzato l'altra. Tu non lo so se Claudio l'ha piazzato, che cosa ne ha fatto. Gianni, il piantone tuo ce l'ho io, me l'hanno chiesto in mille e non lo do a nessuno, la tua antenna è qua, tutta revisionata, l'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo boccolato, perché avete fatto un casino, boccolato nuovamente gli innesi dei radiali, e boh, ed è pronta a montare, è perfetta, quella proprio che ti ha revisionato Fabrizio, però stai attento che tu c'hai una signora antenna, perché quella che hai tu della LEM, ok, è simile alla Mantova, è una canonata con antenna, è robustissima, capito? È robustissima. E alla parte di sotto dove attacca il piede è tutta in acciaio, non in alluminio, non in acciaio, mi chiedi la Franco, l'abbiamo piazzata insieme, tutto in acciaio. Ah, conosco, ma poi il piantone di quell'antenna è molto robusto, parte lo stesso da un pollice e un quarto, a finire mi sembra mezzo pollice, è favolosa quell'antenna, è molto robusta, ma si vede anche come è montata, anche se è tirantata, è una buonissima antenna quella, hai fatto bene a prendere quella, ma se tu gli mettevi una Tornado, mettevi l'antenna che c'ha Marco, mettevi l'antenna, l'avrebbe fatta pezzi, perché tu prendi il maestrale, il levante, il ponente in pieno, capito? Tu sei aperto zona mare, vedi il mare, quindi Gianmarco è all'interno, Antonello che ce l'ha uguale a quella di Marco è all'interno, guarda a Bombolino che gliela adesso non so che danno abbia fatto, perché se è molto esposta ai venti quell'antenna è talmente fine che la crepa, mentre tu hai preso una buonissima antenna. Cosa stavo dicendo? Luca, secondo il mio parere, te la faccio avere io, se quell'antenna riesce a ripristinarla va bene, però sappi che è un'antenna che ti consente di trasmettere eccetera, ma non è un'antenna che ha una grande caratteristica ai venti, se invece monti una Smart Tech come quella che già che ho fatto comprare a Carlo, quella non l'aspetta al vento, c'è un basamento che è una cosa allucinante. Adesso vediamo, perché è fatta tutta elementi, io prendo i due elementi che si sono staccati perché si avvitano uno con l'altro, non hanno faccette, ci hanno in testa il bullone saldato e avvitta sul dado dello stilo che prosegue, no? E lì invece si è stappato. Noi in azienda abbiamo la saldatrice a TIG che salda l'alluminio, me la faccio saldare, me la faccio rinforzare, se regge che bene, se no troverò la soluzione. Sì, ma una volta che la saldi tu mi insegni che rendi pulisci l'antenna, anche se vai a metterle un innesto interno per poterla rinforzare, l'antenna è sempre indebolita, non c'è niente da fare. Non c'è, comunque già siamo in contatto, tienimi informato e vediamo poi cosa si può fare. Vi lascio ragazzi, un abbraccio a tutti, buon proseguimento di questione per chi prosegue, io me ne faccio in cucina che sono già le 8:10 e poi mi guardo un TG. Grazie delle due chiacchiere, buona serata a todos. Vai Carlo. Ciao Claudio, buona serata e buona cena. Io lo stesso farò un altro pochettino, poi anche io vado a cenare, perché la fame si fa sentire. Non so se ci sia ancora Tore, rilancio lui. Ok, tu mi hai rilanciato a me, ciao Sprimeros, alle prossime, ci risentiamo. Ok, anch'io chiudo e ci risentiamo alle prossime. Ok, mi devo pigliare i bacchini. Arrivederci a tutti quanti, statemi bene. Ciao ciao Tore, ci sentiamo, non corretti, anche a te Claudio, non corretti. Avanti, signor Marco Condo. Sega. Ciao Tore, ci sentiamo alle prossime, buon tutto, buona cena, eccetera, dai, sentiamo quello che capita. Vai Luca. Capa, io vado a organizzarmi lo stesso la cena, che alle 8:30 mi guardo la Torres e niente, per oggi è tutto, buona serata a tutti. Sega. Ciao ciao Luca, buona serata anche a te, dai. Speriamo che risolvi al più presto. Guarda, alla peggio, prendo quest'altra antenna che mi sta consigliando Carlo, se questa non è riparabile, oppure prendo quella che c'ha, quella che mi sta suggerendo Gianni, no, Valle, che cazzo, Claudio mi stava dicendo di quell'antenna, ma anche diversamente mi prendo la boomerang come quella che c'ha Carlo, quella lunga, è messa sul tetto da me, fa un lavorone anche quella e magari è più solida, vediamo, ma io penso di riparare questa fino al prossimo vento. È che l'avevo detto all'inizio che è fine è grossa quanto un mignolo, ma infatti ho fatto dei filmati oggi dove, ripeto, sembra una canna da pesca quando la bocca il pesce e te la piega a metà dalla spiaggia. È una cosa impressionante quanto stava piegando e alla fine ha vinto il vento. Vabbè, niente di che, dai, poco danno, già è irrisolvibile. Di nuovo buona serata a tutti. Ciao ciao di nuovo. Avanti, Carlo. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo alle prossime, non ti preoccupare, se non riesci a ripararla non prendere niente, poi ti faccio vedere la Smartec, vieni qua a casa mia e la vedi com'è, tanto ce l'ho giù in garage, capito, non ti preoccupare, già aggiustiamo tutto. Capa, grazie, a domani allora, ciao a tutti. Ciao, ciao. Avanti Carlo, riprenditela tu, che fai di bello, sei andato a cucinare? No, già non dovevo cucinare, ti ho detto, mi faccio insalata, ho dei pomodorini e un po' di insalata che ho già tolto e sciacquati, poi c'ho brezzaola, formaggio buono, mi mangio poi la frutta, stanotte cena leggera e poi mi sparacchio qualche film e niente, un po' di, se ne ho voglia più tardi, un po' di radioascolto finché mi viene il sonno e poi mi strampi sul letto, come dicono. Vabbè, io ancora non ho giocato di mangiare, sono salito in fretta perché c'era freddo, non si poteva stare, mi sono messo anche i guanti, quelli che usavo in moto, quelli imbottiti che non passano un filo d'aria, ma la faccia ti prende sempre. Lo so, c'è ventaccio, penso che anche il cane una volta che ha fatto i bisognini abbia girato i tacchi, immagino, no già? Sì, mi tira verso il caso, dopo che fa i bisogni, mi tira verso il caso, quando c'è questo tempo qua, che vede che c'è freddo, che piove, mi tira verso il portone. Lo so, perché il vento dà fastidio, anche perché loro hanno, usano molto il fiuto, eccetera, invece col vento non riescono a divertirsi, capito? E sono così i cani, quando c'è brutto tempo fanno i bisognini e ritornano subito a casa. È importante quello, dai. Già, dovrebbe fare una sorta di assaggio di primavera, così dicevano i meteorologi qualche giorno fa, una volta che passa questa ondata qua di vento e di bufera, dovrebbe ristabilizzarsi il tempo. Ma speriamo. E comunque hai visto, ho molte antenne, adesso anche Luca si è aggiunto, oltre a Antonio, e poi anche a Roberto gli ha buttato giù una canna da pesca, capito? E evidentemente le antenne sottili, questo vento se le ha frantumate bene bene. C'è qualcuno che sta chiamando, un attimino di bianco. A parte chi chiama già. Poi Eugenio, vabbè, non te ne apposta le mani. Però sei rimasto come segnale. Santiago 4, sì, ma già tanto che arriva a Sassari, là. Se Santiago 4, la radio già è buona, è capibile. A parte caro, l'ascolti Eugenio. Buonasera Eugenio, non lo so se mi ascolti, io ti sento basso, basso, basso, basso e faccio fatica a tirarti fuori, però ti sento. Va bene comunque Eugenio, ti ho riconosciuto dalla voce io. Ma l'antenna attuale messa a posto tu? Ciao Eugenio. E cosa ho messo? Ma l'hai già piazzata Eugenio? E vabbè, magari è il barattino che non rende. Non puoi attaccare il K a vedere come va. Attacco, va. Domani come entro uso il K. Capito? Adesso che può collegare il tutto, lo attaccato. Se vuole penso dalla baradana qua. No, sto provando, ti ripeto, sto baracchino del mio amico, quello amico che lo chiesto è il camper. Capito? Per vedere come va. Ciao Genio! Qua è Santiago 6, Santiago 6 radio 3 da. Ciao Marcolino. Ciao Luigi, sì, già se la cava, mi poi qua l'ho messo in camper, anche se gli dai un watt, gli attacchi un linearetto e te ne dà una ventina penso. È un Midland, 2 plus. Quelli piccolini là, senza il dito, senza niente, c'è solo il canale. Ciao Genio, mi ascolti? Me lo posso chiedere un minuto oggi? Ciao Cra, buonasera. Stai usando il baracchino piccolino con l'antenna? Sto usando il baracchino piccolo con l'antenna. Ok, adesso ti chiamo un attimo, ti devo dire una cosa. Buonasera a tutti. Vai Gianni, scusa. Kappa. Eugenio l'ha salutato, aspetta, Gianni l'ha salutato. Eugenio l'ascolti a Gianni. Infatti ho rilanciato a Gianni un balfetta, non a te. Troia. Va bene, dai. Genio, mi ascolti? Papa Tango, ci sei? Ti ascolto, chi sei? Buonasera. Cazzo, papà non mi conosce. Luprofetta, ciao, già. E allora? E da un po' che non ci sentiamo. Come va? Tutto a posto? Più o meno, dai, mi ha fatto piacere sentire la tua voce. Piccolino, però già ti tiro fuori, dai. Continua così. E beh, ci va a porta con me. Va bene, dai. Le condizioni sono le migliori. Dai, ragazzi, io vi saluto, dai. Ci sentiamo un altro momento. Guardati per me, dai. Saluto tutta la ruota. Ciao, ragazzi. Ciao, Gianni. Ciao, Gianni, alle prossime. Ciao Gianni, è per il doppio. Cappa, avanti, a me stai chiamando, non ero distratto, scusami. Niente, ha fatto un bene l'anno, cazzo che sto vento, porca miseria. Ho sentito un mandamattoriale che in via Balai, dalle amareggiata, hanno transennato per non percorrere via Balai perché ti arrivavano sul parabrezza le secchiate d'acqua e l'hanno chiuso al traffico con le transenne. Immagina il casino che ha fatto. Allora, questa stavo chattando con questa amica siciliana, mi ha detto che praticamente si è mangiato tutta la passeggiata che c'è a fianco al mare, in lungomare, se l'ha tutto mangiato. qua tutto distrutto, ha buttato giù tutto, muretti, tutte le ringhiere, tutto qua. Immagino, ma io mi chiedo già, la torre di dopo Platamona, no, dopo il torre, come si chiama? Corrente, quella lì. Ma come fa a resistere a tali venti, a tale mareggiate? Ormai è vetusta. L'avevano, come si dice, ripristinata, l'hanno, diciamo, le hanno fatto dei lavori, capito? Non lo so cosa ne abbiamo fatto, però visto che c'erano tutte le palcature attorno, stavano facendo dei lavori, quindi penso che l'abbiano rinforzata. Mi pare di aver letto qualcosa sulla nuova anche, che poteva essere a rischio, ma tempo fa l'avevo letto. Comunque che futta per Luca, cioè, ma non per l'antenna in sé, dopo tutto quello che ha aspettato dall'ordine per averla piazzata è arrivato il casino, ma piuttosto per domani niente sapete come il meteo e come il vento. Guarda Marco, io stavo ascoltando adesso la torre di controllo di Alghero, l'ennesimo volo non ce l'ha fatta ad atterrare, dice provavano a Olbia e se neanche a Olbia riuscivano ritornavano a Roma, il posto più vicino è quello, capito? Capito, è un casino, se non cala questo vento creerà disagi anche domani mattina, immagino. Allora domani dopo pranzo dovrebbe calare, comunque non arrivano neanche le navi, neanche domani, sia oggi che domani non sono arrivate le navi. Eia, copiato, figurati. Vabbè, io l'ho vista alle 2:30 la mia, ho buttato la spazzatura, ho visto la mia antenna che ballava alla Ligalli. Vai Carlo. Ma la tua già è robusta, già è ben messa con tutti i radiali che insomma la stabilizzano bene, magari giusto la punta, capito? Già mi sembra un'antenna diciamo ben stabile quella lì. Sì, poi è messa bassa, è bassa, allora il palo è 3,5 metri solo, 3,5 metri ed è sollevato 1 metro da terra, quindi dal pavimento del terrazzo è 4,5 metri la base dell'antenna, e poi è leggerissima, non c'era bisogno di tirantare. Mi è andata bene là, perché bombola la stessa ed è partita Luca, sostanzialmente tipo come la Venom, la stessa antenna, e gli è andata male. Pomponio non pervenuta, lui in alto. No, Antonello non si è sentito oggi, strano, non lo so, comunque anche io prima stavo ascoltando le altre bande, insomma più di una persona ha avuto chi più e chi meno danni, capito? Qualche antenna danneggiata l'hanno avuto anche loro. E poi loro hanno antenne imponenti per l'HF, quindi a Roberto Quadrato ancora gli è andata bene, tra virgolette. Prima c'era entrato Claudio. Oh, mi ascoltate sempre, sì. Sì, sì. Stavo dicendo, per uscire con un fatto sto andando bene, sì, 1, 2, 4, dai. Sì, sì, sì. Cosa pretendi? Con un watt cosa pretendi? È già troppo che arrivi a Sassi. Vabbè, un'antenna nuova, buona, dai. E come stazionare, come sì? Come stazionare non lo dobbiamo avere. Non ce l'ho troppo, domani viene un amico con Roberto e la rosettiamo. Marco, controlla il segnale di Gianni. Il segnale di Gianni? Ma chi doppio room? Sì. Con lo scala qua. Perché? Che succede? Perché già, Carlo, che succede? A me mi sembra che sia sceso un po' di segnale. Qua è tutto a posto. Allora qua è esattamente 9,25, 9,30 è come modula i picchi, capito? Prova a fare un passaggio già. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A me mi sta dando 7, Gianni mi arrivava 9,20 con picchi positivi, anche 9,30. Controlla che non ti ci sia piegata l'antenna a te. Aspetta un attimo che cambio orario, voglio vedere una cosa. Sì, ma tu c'hai sempre la Gamemaster? No, io c'ho la LEM, c'ho la Super LEM. Ah, hai cambiato, ho capito, andavo. Va bene, ragazzi. Gianni, prova a fare un passaggio. Ho cambiato. Aspetta che sta a fare. Sentiamo domani, dai. Ok? Aspetta, Eugenio. No, ci sentiamo, Eugenio. Eugenio, rimani un attimo. Sono qua, dimmi Marco. No, un attimino, fate la prova tu e Carlo, Gianni doppio rum e Carlo. Oh, che prova dobbiamo fare? Carlo, guarda a vedere come va. Allora, con l'altra radio mi sei 9 più 20 con picchi positivi, capito? E invece con la Kenwood mi dava un altro segnale e infatti ho detto strano, quindi tutto a posto già, tutto a posto, con questa mi dà il giusto segnale. Ecco, ma mai il Kenwood, ma non è che ho toccato qualche cosa che ha limitato magari il segnale con qualche cosa? No, non ho toccato niente, proprio assolutamente niente, capito? Niente di niente. Però tu hai questa roba 9.5, Riccardo. Qualche cosa ce l'hai, forse guardati l'antenna, tutto ce l'hai a fianco alla finestra, guardati a vedere se sei buono. Oh, volevo chiedere a Eugenio una cosa della Game Master, ma come mai l'ha cambiata? A caso a rottura o altri motivi? Ruolo alla rottura di palle, tipo? Per fortuna non è entrata da nessuna parte, mi ha bruciato solo l'antenna, la carica. Minchia, non lo sapevo. Ho sentito la portante, Claudio, vai. Io la riconoscete la portante. Che problemi c'è a Carlo, Gianni? Praticamente col Kenwood 2007 Santiago 7, lui ha attaccato la trapparecchia al volume 25 come al suo. Ma non so, qua Carlo ha il tuo stesso segnale, fatti un blondo tu, 9 pieno abbondante, 9 pieno abbondante, perché ha spostato l'antenna e ha superato, prima era 8, adesso arriva più di 9, va bene Carlo, ottimo, ma quella radio gliel'ho piazzata io e gliel'ho, come si dice, memorizzata io e non ci sono problemi, è tutto a posto lì. Non lo so cosa dirti, io come ti sto arrivando? Non sei molto alto oggi, 9 sei tu, 9, di solito mi arrivi 9.5, 9.10, non sei molto alto, adesso guardando bene lo smitter, non sei molto alto già. Io? Dimmi oggi. E io come ti arrivo, nonostante stia provando quel baracchino che hai visto tu? Oggi, se stai usando 2 watt e mezzo, mi stai arrivando Santiago 3, ed è un segnalone, quando piatti l'altra radio, secondo me hai un'ottima antenna, la differenza di quel cesso mi si è bruciata. Ecco. Quello nero che hai visto tu. Avanti. Un attimo, stanno parlando. Un attimo, riprendete quando vi rilanciano. Cosa hai detto oggi? Ho detto che sto usando quel baracchetto che ho fatto vedere a te, quello nero, se dal picca. Vabbè, riprende Buon Carlo o cosa? Più lungo, dai. Ok oggi, no, io ti ho sentito, sentivo questo problema, sono entrato per dare per dire la mia con Gianni e Carlo. Comunque S3 è un ottimo segnale qui da me, da me, poi dagli altri non mi interessa, ma da me è un segnalone, quando poi piatti l'altra radio, che te la stai controllando, hai un ottimo segnale. C'è stato il break di Roberto Quadrato e poi vai per chi vuoi, Roberto. Io mi allontano che sto cucinando. No, stavo parlando un attimino, ho sentito Eugenio, sono da molto che non lo sento. S9 qua stai arrivando, un peluzzino un po' più di 9. Se sei con 2 watt una bomba stai uscendo, Eugenio. Saluto anche Claudio che mi ha fatto entrare. Chi c'era poi? Gianni, poi non so, ho sentito un attimino, stavate parlando di antenne, basta. Aspetta, rilancia Eugenio che lo saluto. Ciao Robè, buonasera. Un baracchetto piccolino sto usando, sta fra 2 watt, dai. Non ha niente, e per il camper, capito? No, sta arrivando su per il 9, appena un po' più su di 9. Ok, riprendete voi, chi tocca? Gianni e poi gli altri. Scusate l'intromissione, era un saluto di Eugenio che non lo sentivo da tanto. Ciao Roberto, ciao, non so come ti sto arrivando, perché con questo vento, cazzo, non capisco se sta andando bene o male. Me lo dai un controllo? 9.25 con i picchi quasi 9.30. Poi allora già è lui sempre, dai, non c'è problema. È il segnale che ti arrivavo sempre, va bene. A te qualche cosa ti ha fatto danno, ti ha fatto rompere? La Mantova no, mi ha crepato la verticale autobande con la tipo canna da pesca, l'ha spezzata in due alla base, me ne stavo parlando con Claudio poco fa, e poi quella tipo sendino, quella con UEM, un'antenna che ho pagato anche un po' di soldini, l'ha frantumata. Era un tirantino, ha mollato, era da qualche giorno così, ma adesso l'ha spaccata tutta, l'ha fatta a mille pezzi, ha rotto anche il piantone, eccetera. Vabbè, purtroppo sono cose che capitano. Le folate sono, quelle folate che dà di colpo, quelle sono vicine. La lampa di un albero, figurati se non può buttare le antenne, vabbè, questo vento è micidiale. Se ne buttava la direttiva, cacchio, ho fatto bene a non alzarla troppo, l'ho lasciata a quell'altezza lì, è inutile avere tante altezze. A Fabrizio dice che le ha fatto danno, l'ho sentito anche, mi dispiace tanto, a Vanni di Alghero, alla Marco lo stesso di Alghero, un sacco di gente ha fatto danni. Mi dispiace, purtroppo non siamo abituati, io ho questo vento così forte, a memoria mia, non me l'ho mai sentito, qualche folata, qualche cosa era capitata, ma una cosa così forte dentro città che mi ricordi io a memoria. Niente di più, signori, vi saluto, dai, che stavo facendo altre cose. Ciao Gianni, ciao Genio, ciao Claudio, ciao Carlo e chiunque ci fosse in ascolto. Non ho fatto un attimino di saluti. Ciao a tutti. Ciao, ciao Roberto, ci sentiamo, dai. Buona serata. Ciao Roberto. Ah, ciao Marco pure a te. Comunque ho cambiato apparato, Eugenio, li confermo il segnale, sì, Santiago sì. Riprendi Eugenio. Ciao Roberto, ci sentiamo, dai. Chi altro c'era? Claudio? No, Claudio sta cucinando. Marco, mi sa che Eugenio ha il telefono con Claudio, perché si dovevano sentire, così ho capito prima. No Gianni, con l'altra radio il segnale è rimasto sempre 9.20, sempre con i picchi positivi. Qua chissà perché mi dà Santiago 7, capito? Santiago 7, io non ho toccato niente, vuol dire che sono differenti, oppure può darsi che per via del commutatore d'antenna, non ho idea, però di radio ti sento sempre bene, capito? No, quando ce l'avevo lì aveva lo stesso segnale, sia il Galaxy che ho fatto le prove, che il Kenwood erano uguali, precisi di segnale. Esatto, infatti quello che mi sembra strano è che per esempio Marco ce l'ho vicino e mi arriva a fondo scala, adesso ha cambiato radio, sempre fondo scala, Roberto mi arriva a 9.40, ho visto che era 9.40, Claudio mi arriva qua, Santiago 9 con picchi positivi, no? E mi arriva a 9.10, dai, 9.10 ed è rimasto uguale, adesso non c'è nessun altro, capito, invece chissà perché il tuo segnale me lo dà 7. No, lo so. Ho controllato la mia antenna, sono uscito fuori e non si è spostata di niente, capito? Quindi non lo so, evidentemente è un problema del cavo, non lo so, forse il commutatore magari mi manda un segnale differente, perché con l'altra mi dà sempre il tuo il segnale, e invece con questa mi sta facendo questa roba qua. Fa un'altra prova, attacca il cavo diretto dell'antenna al Kenwood e mi dà il controllo. Sì, glielo volevo dire anch'io, attento agli spezzoni, magari è un caso, cambia apparato, sai, come muovi lo spezzone, tocca o non tocca, mi è capitato tante volte in passato. Va bene, riprenda, che vuoi riprendere? No, prima lo sentivo meglio a Giancarlo, adesso non lo sento proprio meglio al cuscio del galattino. Prima lo tiravo fuori bene, adesso da quando ha cambiato apparato non lo so più. Comunque Eugenio, facciamo la controprova, eh? Tu hai detto che c'hai 1-2 watt, ecco, 4 watt, questi sono i 4 watt, questi boh, forse 70, 65, chi può saperlo? Abbiamo parlato di 2. Ho detto, no, era per fare la controprova Eugenio, con 4 watt, così sono 4, no, ho sbagliato, così sono 4, e così 70 credo, più o meno. E a voglia, cioè, la radio cambia tantissimo, quando c'è 4 watt si abbassa tantissimo, poi cambia e si è perfetto. Eugenio, dalla anche a me il controllo, così la radio è normale, guarda il segnale adesso. Ti ho detto che segnale non te ne posso dare, che non è autista. Ah, scusa, non me l'ho ricordato, dai. Pardon. Posso dare un segnale di radio, ma la radio la tua già è più forte. Guarda, adesso l'ho attaccato, guarda come qua. Tendi a saturare, qua tendi a saturare. Mi ha chiamato qualcuno, ho sentito Claudio. Per rilanciare era. No, sto cucinando, ragazzi, no, non si cena stanotte. Dove hai chiamato oggi? Ho sentito Claudio. No, ragazzi, io devo, sto cucinando. No, caro, non ti chiamo qui. Ok, dai, divertitevi, ci sentiamo più tardi. Già, io te l'ho detto già 100 volte, non te lo ripeto più. Devi metterti un punto di riferimento per l'ingresso sull'amplificatore, perché se vai ad attaccare e magari hai la potenza troppo alta, come ti ha detto Eugenio, vai in saturazione. Già lo so, perché sono al buio adesso, non vedevo. No, ce l'ho punto di riferimento, arrivo a 30 e da lì lo devo mollare. 30 come power. Ah, 30 devo lasciarlo lì per non saturare. Adesso perché sono al buio non posso fare un cavolo, va bene. Claudio, se stai cucinando, allora buona cena, dai, io ho già cucinato l'altra, adesso fatemela avanti. No, io sto facendo le pennette con le melanzane, pennette, melanzane e bottarga, ok, che ne avevo anche voglia. Ti saluto, raga, e oggi se arrivendi una bomba con 2 watt e mezzo, mi sei S3, io sono il più distante di tutti, domani mi dai la risposta, dai, già poi ci sentiamo, ci aggiorniamo, ciao a tutti, baci e abbracci. Ciao, ci sentiamo domani, ciao. Gianni, ci sei? Sì, ci sono, guarda a vedere. 9 più 20. E allora dipende dallo spezzone tu. Esatto. Chissà perché. Invece con l'altra attacco e funziona. Poi provo a invertire i due cosi. Magari questo miscelatore qualche scossone magari l'ha preso. Oh Carle, stai attento con le spezzoni con quella radio, mica non è un baracchino, quella c'ha un rientro di RF allucinante. Eia, no, già è a posto. Non fare come ha fatto un amico che c'ho ancora le lacrime, state attenti agli spezzoni con i commutatori, perché se lo spezzone è in corto, il PL, e vai a commutare, la commutazione ti fa rientro di RF, ti brucia la radio. Eia, no, già è tutto a posto. Attento, sempre molta attenzione, ok, attaccatevi gli strumenti, ve lo dico per il vostro bene, per carità, non è un rimprovero per nessuno, mi conoscete una vita, però ci tengo a queste cose, state attenti agli ispezioni, prima di collegarli usiamo il tester che lo conosciamo tutti, perché lo spezzone a me mi ha creato un danno allucinante ad una radio che fortunatamente mi hanno recuperato, altrimenti era da buttare via, uno spezzone di merda, ok, sotto commutatore d'antenna, siamo molto attenti, perché sembriamo, perché chiaramente siamo tutti bravi a fare un PL, però non ci vuole niente, un filo che non vediamo, siamo senza occhiali, una distrazione, va a toccare il polo caldo, ok, la calza, sto parlando, va a toccare, va in corto il PL, lo attacchiamo e non un cazzo, anche se c'è la ricezione, il PL è in corto, vai a pigiare il PTT, entra l'RF, se divulga la radio, perché è un rientro di radiofrequenza, ricordatevelo sempre. Vi voglio tutti bene, vado a mangiare, ciao! Ciao, mangia poco. Oh Carlo, prova col tester, controllalo quello spessore con il tester. Sì Gianni, questo è lo spezzone nuovo, è controllato col tessere, che ha posto il cavo, capito? Ma controllato bene, anche più di una volta, proprio fatti tutti i controlli possibili e immaginabili. Io sto pensando che può darsi pure che magari sia perché prende il segnale dal miscelatore, l'antenna, capito? E quindi non mi dà lo stesso valore dell'altra radio. Poi farò le opportune verifiche domani, perché tanto adesso l'ora è tarda e ce ne andiamo tutti a cenare. Ehi, dai, io vi saluto tutti, dai. Grazie per il consiglio, c'è Eugenio, Marco, Carlo, tutti quelli che ci sono in ascolto. Non voglio dimenticare nessuno. Ciao a tutti, buona cena, ci sentiamo, vado anch'io a cenare, dai, ciao ciao. Ciao Gianni, buona cena. Marco, ci sei ancora? Via. Ciao Gianni, buona cena e buon tutto, ci sentiamo. Ecco, mi sto accorgendo che ho preso freddo oggi, altro che. Cercherò di scaldarmi bene stanotte, al massimo, al limite ci passa anche una bella aspirina. Vediamo. Esatto, e anche io adesso chiudo e vado a cenare perché sono le 8:30, mi ascolto un po' di notizie e mi sa che ce la risentiamo domani. Va bene Marcolino, non so se Eugenio mi senta a me o meno. Ci sentiamo tutto alle prossimine, ascolto il vostro finale e poi chiudo. Buonasera a tutti. Eia. Ok Carlo. Quindi saluto anche Claudio, se ancora c'è l'apparato acceso, Eugenio, Gianni, Opirum, Carlo, qualcun altro c'era, Parino. E sentiamo in migliori occasioni, ok? Ciao, buona serata a tutti, ciao.